Ma il 23 dicembre al Teatro Valle Occupato, ma chi ci sta? Lo sai tu? Ma ci sta. Vedi che ci stanno una cifra di gente? No. Ma una cifra che manco c'entra dentro al teatro? Dice che il Duca. Oddio, il Duca. Vi è il Duca, Manolo Luppichini, poi c'è l'Aspro. Poi ci sta pure gli assalti. No, l'Aspro no, ci stanno pure gli assalti frontali. E dai! No. C'è sta Ocapi. C'è sta Zero Calcare. Ma no. Eppure quella merda di Elio Germano. Ma dai, no. Ma allora ci stanno proprio tutti. Ma tu, allora, e tu che fai? Non vengi? Ma come no, non vengo. Ma capito dove? Al Vallo Occupato. Ma perché poi soprattutto? E perché? Perché compagni, è una serata a sostegno di Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa? Ma radio dove stiamo adesso noi qua? Esatto, lunedì 23 dicembre alle ore 21. Non potete mancare, perché se mancate non siete compagni. No. Dicono pure che le bestie rare suonano, capito? Ma no, addirittura. Sì. Ma ci sta pure per caso Melozzi, no, eh? No. No, cioè, Melozzi non c'è. Cioè c'è sta Elio che presenta i libri del Tacco del Duca con Zero Calcare. Poi c'è sta Mauro Milone che passeggia per foyer. No. Quindi, compagneria. 23 dicembre alle ore 21 sosteniamo tutti Radio Onda Rossa con il Duca, Luppichini, l'Aspro, Leo Germano, Assalti Frontali, Zero Calcare, Ocapi e pure Federico e dagli pure te.